purchase your tracks today. Festa della mia vanità, genio nel senno, se no, vedo Mademoiselle d'Avignon spogliarsi in giro di danza, amen mio Deo, mi presenta Amadeus, mentre tesse il vestito di Cleopatra mea. Avanti siamo sull'orlo di un desiderio estremo, meno, più, e meno più, e better, pace il mondo e tanto amore, better, sono Lucifer, con in mano quadriche diversi piumosi di inchiostri. Mostri miei per mano, prendetemi e facciamo una festa del nostro vanità, inchiostro, superbia, ira, lasciva, trema sotto la mia ira, invidia di altri. Siamo mostri, ma non per odiarci, ma per amarci. O mia Cleopatra, io verserei il liquido più bello del mondo per versarti il calice più profondo di me. Il Dio che c'è in me, il Dio che c'è in me, versa estasi di rime e lacrime di brividi. Mentre accarezzo un persiano tappeto indiano sul quale ci amiamo, verso il verso in vano, come petali sparsi su tessuti di asse, al vento di rabbia, al vento tormento del mio lamento, in rime per rodigio di vento. Sono colui il tipo, io il mito, Amadeus, richiamo dalle tombe assieme a Mozart e a Hendrix, risorgo con Morrison de Corbusier, mi sfanderò la grande architettura, i progetti, mi manderò Mario Botta, luce e incanto, Peppino Sassi, Betty e i poeti estremi di questo prodigio che è l'amore.